Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. No, io sono ancora scioccato, guarda, perché con la pubblicazione del nuovo disco mi ha scioccato completamente. Buonasera a tutti voi in contatto con il soundcheck di Radio 24 qui dal Groovemaster Studio. Buon anno, buon 2015 da Gegè Telesforo e buon anno anche ai miei ospiti. Sono felicissimo di attraversare questa nuova stagione traghettando, parlando di musica e di altro con due carissimi amici che sono tornati a trovarmi. Ladies and gentlemen, vado a presentarvi la più bella di tutte, voce impressionante, con un libro appena pubblicato sulla sua storia, un libro a fumetti, la bravissima e bellissima Greta Panettieri. Benvenuta al Soundcheck. Grazie, Happy New Year everybody. E vado a introdurti, mia cara Greta. Credo che tu abbia incontrato solo qualche minuto fa per la prima volta una delle voci più famose degli Stati Uniti, ma vi stiamo parlando degli anni 70, quando militava nei network più importanti, quelli legati alle leggende della black music. Ladies and gentlemen, torna al sound check and put your hands together, Mr. Larry White. Merry Christmas, Happy New Year. Sono molto felice di stare qua, come ti chiami tu? Greta. Greta, a fine piece of booty on that lady. Ah. But bella ragazza. Bella. I like that lady, she's nice. And you do a good job, bravo, portare questo bene cantante che qua in Italia, dentro lo studio, a fare la musica che è importante, la gente ascolta la musica. Happy New Year, Merry Christmas. Larry, tu sai che Greta ha vissuto a lungo a New York City, quindi la sua vocalità si è formata proprio in un ambiente fatto di musicisti afroamericani, anche se poi canta di tutto, anche musica italiana, portoghese, brasiliana e via dicendo. Non soltanto cantando la voce, si vede da come muove, come cammina, come ha imparato molte cose dalle donne, dalle persone per bene che camminano, perché quando la donna nera cammina si muove tutte le cose, everything moves right. It's nice. You got some fine booty, that's ecco, nice. Quando si muove quello culo che è bello, no. È bello perché dà gioia di vita and everybody's so happy. Lord have mercy on my soul. Greta, like avrei capito che ti sta facendo dei complimenti. Guarda, pare così, speriamo bene. Bene, perché io vi ho coinvolto in questa prima puntata del 2015 perché un paio di settimane fa, finalmente dopo 14 anni, è tornato con il nuovo disco il campione della soul music, il monarca del new soul, anche se a lui non piace essere definito un artista new soul. Lui fa black music e questa volta ha fatto di più. È un disco Black Messiah, quello nuovo di D'Angelo, che pone un nuovo standard sulla musica contemporanea. Un disco complesso realizzato con la complicità di ottimi musicisti, fra questi c'è anche il meraviglioso Questlove, il batterista dei Roots, la partecipazione come autore di molti testi del bravissimo Q-Tip, un autore di riferimento per l'hip hop contemporaneo. Ebbene, il disco è stato pubblicato, se non l'avete ancora acquistato vi consiglio di farlo perché questo sarà un album importante per la black music. C'è di tutto, c'è il suono un po' di James Brown, un po' di Prince, c'è molto di D'Angelo naturalmente, e in questo brano, il singolo intitolato Sugar Daddy, c'è anche qualcosa di Frank Zappa che sicuramente Larry White avrà riconosciuto. Allora io direi di fare subito l'ascolto con Sugar Daddy, che apre questa puntata del Soundcheck, ma poi ascolteremo anche altri brani tratti da Black Messiah. Lui è the one and only D'Angelo al Soundcheck di Radio 24. Lord have mercy, man. me feel good. That make me feel fine inside. Sugar and outside. Daddy. From my mind, right Sugar down to, Daddy, right il sound di D'Angelo da The Black Messiah, il nuovo album, e il nostro Larry White è in preda all'eccitazione per questo groove irresistibile creato in studio con la complicità di Pino Palladino al basso, Questlove alla batteria e il testo di Q-Tip. Ecco, incomprensibile anche per gli americani puro sangue, ma il testo noi siamo riusciti a trovarlo in internet, tradotto da appassionati di D'Angelo, e vorrei che Larry White, non lo chiedo a Greta, grazie, perché il testo, sebbene poi il disco sia un disco politico e tratta argomenti importanti, questo testo, quello di Sugar Daddy, parla di una storia di sesso sfrenato con una ragazza. Vorrei che Larry White ci raccontasse il senso di Sugar Daddy. May the Lord forgive me for what I'm about to say. Ecco, Dio, che il Signore mi perdoni per quello che sto per dire. It goes beyond, va oltre tutto quello che tu puoi pensare. Adesso abbiamo saputo quando James, il padre del soul, James Brown. Of course, James Brown, the Godfather. When he got really hot and he had no words left to say, you know what he would say? Cosa diceva quando sono finite le parole? Lui diceva, that's what he was saying. That make feel good. Now, what Mr. Giancarlo D'Angelo, lui ha tradotto questo in parole vere, in parole brevi. Testo è stato scritto da Q-Tip, il rapper. Yes, but he sings it. Lui canta bene e canta con tanto sentimento. Di che parla? Now, when a woman and a donna stanno insieme, no? Sì. And you get all funky. Che tipo di donna descrive, Larry? A nice woman, a beautiful woman with some fine beauty. Fine booty. Some fine booty. You need the booty. Get sì, funky. Ho capito. Hai bisogno del booty. Diciamo, dalla A alla Z intorno alla Q, ecco. Yes, right, questo che ho va bene. Now then, when quando uomo e donna stanno insieme and they get funky, you get funky so sudore and you're into that, that's the way James Brown did. What this man QT did D'Angelo il testo QT, lui dice quello che succede, lui descrive bene, dillo piano però. Yes. Il rapporto, il suono dell'amore che escono che quando uno fa l'amore, questo descrive. Allora quando tu prendi quella cosa e lo metti dentro quell'altra cosa, esce un suono. E lui descrive con grande arte, sì, è vero Greta, perché get up, yeah, you gotta get up, Lord, get up, get down, because when I feel that coming down on me, Larry, placati, fategli una puntura. I feel good, make me feel good, baby, you gotta give it to me. I want more and more and more. I want it now, Larry, and now, thank you Lord. Ecco, thank you. Il thank suono you. Dell'amore, è vero, Q-Tip descrive con questo testo per D'Angelo il suono dell'amore. La cosa interessante, leggendo proprio il testo, è che non c'è una parolaccia, però si capisce tutto. Si capisce tutto, diciamo che le hanno messe bene vicine le parole per descrivere tutta la situazione. Ci ritrovi nel testo? Ma insomma. No, scusami. Allora facciamo una cosa. Sentiamo invece che cosa ha combinato ancora D'Angelo, perché da un brano così aggressivo ritmicamente e con un testo erotico, molto forte. No, è la verità. Lui racconta la verità. Quello che ci ha dato il Signore, quello che ci ha dato dentro da buttare fuori, quello che ci ha dato da buttare fuori, da mettere dentro e da mettere soprattutto insieme. Lord have mercy. That's what they did. Si sono messi insieme, Larry, questi, e hanno espresso la loro gioia di vivere, Larry, attraverso il sesso. Sì. God bless you. Larry, ti faccio sentire un altro brano da Black Messiah, si intitola Another Life di Angelo. Soundcheck, il suono della musica. Di D'Angelo and the Vanguard con The Door dal nuovo album Black Messiah. Lo stiamo presentando qui per la prima volta al Soundcheck di Radio 24 dopo un paio di settimane dalla pubblicazione. Album splendido, secondo me. Io poi sono un fan accanito e ho avuto il piacere 2 anni fa di vederlo dal vivo a Los Angeles alla Gibson Theater lì negli Universal Studios, un concerto fantastico con D'Angelo e poi Mary J. Blige. Ma devo dire che dopo la band di D'Angelo con Chris Daddy Dave alla batteria, Pino Palladino e quegli altri animali fra virgolette che calcavano il palcoscenico, la performance di Mary J. Blige mi sembrava quasi una performance da ragazzina. Allora, D'Angelo al soundcheck con i nostri ospiti Larry White e Miss Greta Panettieri, che naturalmente è appena tornata da New York, dove era molto atteso D'Angelo. Assolutamente, io guarda, sono felicissima di essere qui a parlare di D'Angelo con te, perché io sono una antica fan del soggetto. Una nota: che D'Angelo ha pubblicato con questo soltanto 3 dischi e questo album torna dopo 14 anni dalla pubblicazione di Voodoo, che pure segnò un momento importante per la black music. Esatto, che abbiamo tutti consumato perché eravamo tutti in attesa da ormai anni veramente che uscisse questo album. E di D'Angelo io mi sento di dire che è forse tra God have mercy, but I think he's one of the sexiest person, men, for all, women and men. Ecco, lo dice in inglese perché non vuole sbilanciarsi in italiano, lo considera uno degli uomini più sexy, non solo nella musica, però dico una cosa, quando lui è... uomini e donne, anche per gli uomini, secondo me, perché non ti dà questo senso di sexiness a te? A me piace proprio, mi piace anche fisicamente, ma soprattutto come musicista. Certo. Però fisicamente, quando fu pubblicato il famoso video dove lui era con gli addominali scolpiti in bella vista, e poi l'ho ritrovato 2 anni fa al Gibson Theater, al Universal Studio, devo dire che D'Angelo si è presentato con una bella pancetta. E oramai il tempo ha fatto i suoi danni anche sul fisico di D'Angelo, però le ragazze impazzivano comunque, anche perché ha l'atteggiamento sexy sul palco, un po' quello di James Brown, un po' quello di Prince. Vorrei sapere da Larry White che cosa pensa di D'Angelo come performer. Oh, D'Angelo is a very fine, scusa per parlare in italiano, un uomo molto fine, molto raffinato, bello. Io l'ho visto... Ma questo non direi, però. No, è raffinatissimo, l'ho visto dove fanno i massaggi. Ah, in una sala di massaggi? Sì, in una sala di massaggi c'erano 5-6 donne che lo massaggiavano, e lui è cominciato proprio da, from the pinky of his feet, from the mignolino dello piede, su, e lui stava lì. Tranquillo. Sì. Poi sono andato su, hanno polpacci. Sul polpaccio, vediamo dove va a finire sto massaggio, già lo so. They went up to his knees, allo ginocchio, they went up to his neck, then they went up to his thighs, tutte le cosce, then they went back down on his butt. On his butt. Poi hanno iniziato a massaggiare il sedere di D'Angelo. No, the cappies. Le chiappe, va bene. Then they left and went up on the stairs. Vediamo dove andiamo a finire. He started laughing, man. Look at that. They were diggling, but he didn't move. È pazzo completamente. Non ha mosso ancora. Niente. When intorno al capezzoli, he liked that. He was nice. He was like, oh, doing that. Ancora, mi piace. Then from the capezzoli went down. Scusa, Greta. He went down. He got down. Sono storie vere. Went down on his stomach muscle, down sulla tartaruga. Si chiama qui. La tartaruga e gli addominali, sì. E non rideva prima come prima. E sempre era... Non faceva... No, niente, tranquillo, stava tranquillo. Poi sono... Il massaggio è iniziato a scendere, e lo so. E poi sono arrivate lì. E there he went... And that is where, in quel momento lì, lui ha scritto la prima parte di questa canzone. Quale? Quando fischiava. Sugar Daddy. Col fischietto, è lì che ha iniziato a fischiare per The Door. That's where he started the music. That's where he started. È una vera storia. C'ero io, presento. Sì, figurati, è una vera storia. D'Angelo, The Black Messiah, Betray My Heart al soundcheck. Soundcheck. il suono della musica. Si intitola The London Sessions e si capisce anche perché, per Mary J. Blige, All Them Here, qui al Soundcheck. Mary J. Blige registra il nuovo album a Londra negli Abbey Road Studios, quelli dei Beatles, per ritrovare una sonorità sicuramente black, ma con un po' di nebbia londinese, che non guasta forse in questo momento per il sound di Mary J. Blige, che è una delle passioni di Larry White, devi sapere, Greta. Tutte le volte che anche in altre produzioni radiofoniche io presentavo Mary J. Blige con Larry White present, ecco, vedi, inizia a sentire qualcosa. Posso anche immaginare il perché, viste le sue, come dire, tendenze e passioni. Ma sai perché? Perché Mary J. Blige in tutti i concerti lancia delle invettive contro gli uomini, che gliene hanno fatte passare di tutti i colori, e questa cosa a Larry White piace, perché a lui piacciono le donne che lo trattano male. I see, make me feel good. Ecco, lo fanno sentire bene. Make me feel good. Do you feel good? Lord, I feel good. I feel just fine. In the words of the great poet James Brown, I feel good. Okay. That's what Mary Blige does. He make you feel, she make you feel good. As a matter of fact now, there's a church, there's a chiesa dedicata è tutto legato al signore Mary J. Blige. And she's going to become a saint. Diventa santa Mary J. Blige. Certo, una santa, come D'Angelo, come un bravo ragazzo. Right, you go into the church and you say the Virgin Mary. No, you say Santa Rita. No, who do you say? You say Saint Mary J. Blige. Bless me from up above. Grazie, Larry. Posso scambiare due parole in santa pace con Greta? No, fammi parlare con Greta. Stiamo per presentare un brano con Greta. Allora, fammi parlare un attimo con Greta. No, I want you to tell you about Mary J. Blige. She is a fine woman from the color of her skin. Greta, perdonami, però io vorrei parlare di Viaggio in Jazz. No, perché questa è una bella cosa. Insieme a Jasmine Cacciola avete realizzato questa pubblicazione che racconta, con tutta una serie di disegni molto ben fatti, la tua storia. È bello, perché di solito queste cose si fanno quando uno poi è defunto, e invece tu ti trovi un libro fatto in neanche in maturità, perché per me sei sempre una ragazzina. Certo, e quindi ho pensato bene di farlo alla maniera dei ragazzini, quindi ne ho fatto un fumetto. E sì, ho fatto questa cosa perché, non lo so, è sempre venuto un po' spontaneo. Poi tu mi conosci bene, insomma, io sembro un po' un fumetto, almeno così mi dicono. C'ho quest'aria un po'. Non è un fumetto. Tu sei molto bella, perché tu ti muovi come una donna vera, non come questi fringuellini cantanti italiani. Oh, Larry, thank you so much. Quando tu ti muovi, la gente si gira e guarda e fa, look at that, yeah, I like that. That's fine. Non si può fare un discorso quando c'è Larry. Ma allora, questa storia si svolge proprio a New York, per cui this is perfect, è un perfetto, come dire, colonna sonora al nostro Viaggio in Jazz. Quindi troverete pubblicato per le edizioni Corsare questo Viaggio in Jazz, la storia di Greta Panettieri, con disegni bellissimi, ma soprattutto un album molto bello, Greta's Bakery Under Control. E proprio da questo album vi propongo la versione di I Just Can't Stop Loving You di Michael Jackson, e qui hai dato una prova eccellente di grande vocalist e grandissima sensibilità. Greta Panettieri al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Dopo l'informazione di Radio 24 siete di nuovo collegati con il Groovemaster Studio per il primo appuntamento dell'anno del Soundcheck, la prova del suono, con nostri ospiti quest'oggi la bravissima Greta Pannettieri e il ritorno di Larry White. E stavamo parlando durante l'informazione di cos'è il talento oggi e come si può rintracciare il talento con tutto quello che c'è stato, con l'evoluzione della musica, con i grandi musicisti che hanno segnato il corso della musica. Mr. Larry White, tu che facevi il DJ negli anni 70 e ancora oggi sei un grande appassionato di musica, quando incontri il talento, come lo cerchi il talento nei musicisti? Well, you gotta look for something, you gotta cercare le cose come stai, you gotta cercare, come quando tu vai a mangiare, no? Come tu, quando vai a mangiare? Tu mangi un pezzo di, per esempio, di pollo fritto. Sì. Quello è buono, no? Sì. E tu sul pollo fritto, che cosa ci devi mettere sul pollo fritto? Beh, la pastella ci devi mettere, il sale. No, quando lo mangi. Quando lo mangi, il limone che ci metti? No, in Italia si mette ketchup. That's right, you put ketchup. Right, that's right. Ketchup, ok. Put some ketchup there. So we're talking about fried chicken, no pollo fritto. Fried, ah no, perché il pollo fritto è italiano. Fried chicken. Shut up, let me talk, let me finish this, because I have a difficult concept, un concetto difficile da spiegare. Certo. Allora, tu senti due sapori nella bocca. Tu senti il pollo fritto sulle pupille gustative. Papille. Gustative, e senti il ketchup dall'altra parte. Non ok. Senti, e si sposa molto bene insieme con l'altro. Sì. Ma io voglio parlare di questo? No. No. No. E allora no. Di che vogliamo parlare? Perché qualche volta quando tu vai a mangiare e vedi tante cose nello stesso piatto... Stavamo parlando del talento, eh? Tanti ingredienti, che cosa succede? Tu tutti questi ingredienti, all these ingredients, tu te le schiaffi, metti dentro la bocca e tu senti un sapore unico. Unico. Oh. Il nuovo sapore. Il nuovo sapore. Quando nasce un musicista che ha tanti strumenti, tante cose, tante produzioni, che si è ispirato a questo, si è esperto a quell'altro, si è esperto a... Che cos'è? Non lo so, è un nuovo cantante, è un nuovo sapore. Un nuovo artista. Un nuovo artista, unico, grande, però per essere grande, you need the funk. You gotta have the funk, because if you don't have the funk, certo, you can't get up. Sì. And you gotta get up to get down. E questo è quello, you gotta get up to get down, è il motto famoso, è, diciamo un annuncio di battaglia quasi. You gotta get up to get down. Certo. Senti Greta, hai mai sentito parlare di Jacob Collier? Assolutamente, sì, lo conosco dagli esordi, insomma, che mi sembra 2-3 anni fa lui uscì con tutti questi video, con le sue faccettine che armonizzava. Sì, un vero fenomeno mediatico. Adesso pare che Quincy Jones stia curando la produzione del nuovo disco, anche se poi Jacob Collier fa tutto da solo a casa, viene da una famiglia di musicisti ventenne, e ultimamente ha pubblicato su YouTube un nuovo video con una versione rivisitata di un classico di Burt Bacharach. Quincy Jones verso il finale si percepisce assolutamente, e infatti il brano si intitola Close to You, una composizione bellissima, immortale, di Burt Bacharach. Ma sentite che cosa ha combinato da solo nella sua cameretta Jacob Collier qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Questa è un'altra bella voce, quella di Chantal Kreviazuk. Non è così conosciuta da noi, ma è una bravissima vocalist, una professionista, ospite di un progetto del trombettista Chris Body, e anche questo era The Look of Love, brano scritto bellissimo da Burt Bacharach. Questo è il Soundcheck di Radio 24, Greta Pannettieri nostra ospite, Mr. Larry White credo sia andato a preparare probabilmente un club sandwich per noi, perché ha la passione per la musica ma anche per la cucina. Vedremo che cosa ha portato si è portato gli ingredienti da casa, credo... Lo assumo a Greta's Bakery? Beh, certamente, devi prenderlo nella tua, nel tuo forno, lo devi assumere. No, anche perché si è portato gli ingredienti, credo gli avanzi del Capodanno per farci i panini, però probabilmente il tacchino. Allora Greta, certo, è stato pubblicato questo libro, Viaggio in Jazz, dentro c'è, lo ripeto, il CD intitolato Under Control, realizzato con il producer Rocky Salento, Andrea San Martino, che salutiamo, però ultimamente ti sei divertita anche a rivisitare dei classici anni 50-60 del repertorio italiano. Sì. Perché questa scelta? Ma una scelta in realtà che mi ha riportato al jazz, e quindi diciamo cercavo sia una chiave d'accesso all'Italia che una chiave di ritorno alle mie origini da jazzista, e quindi ho pensato di fare questa cosa sugli anni 60. La cosa bella è che poi hai portato questo progetto a New York, ti sei esibita cantando in italiano canzoni swing italiane. Esatto, beh sì, comunque il repertorio diciamo è tutti i classici di Mina fondamentalmente, e quindi è un'artista, una delle pochissime di quell'epoca insomma internazionali, e quindi è andata molto bene, ci siamo divertiti molto e i pezzi sono stati proprio apprezzati. È stato molto di soddisfazione arrivare a New York with this. Allora, vediamo che cosa hai combinato con questo progetto. Il brano scritto dal maestro Canfora e credo con un testo di Lina Wertmüller, giusto? Esattamente, sì, delizioso. Si intitola? Sono qui per te. Soundcheck, il suono della musica. Tanto per tornare a gustare il suono caldissimo dei Moonchild, trio californiano composto da Andris Metson, Amber Navran e Max Brick, tre ragazzi californiani, bianchi naturalmente, diplomati in musica alla Los Angeles University, ma che fanno musica molto interessante nel loro home studio, apprezzati da Stevie Wonder che li ha chiamati ad aprire i suoi concerti lì in California, ma anche apprezzati da Robert Glasper che ha segnato anche delle note sul sito. Tutta musica che troverete nelle pagine di Bandcamp proprio di Moonchild qui al Soundcheck. Che ne pensi, Greta? Ma sono molto interessanti, raffinati, ma soulful, creativi, bravissimi, mi piacciono moltissimo. Vorrei fare una domanda a Larry White a proposito proprio di questa passione che hanno i musicisti bianchi della nuova generazione nei confronti della black music. Quali sono gli ingredienti per un musicista bianco per affrontare il repertorio tipicamente black? Bella domanda, ottima. Maschio o femmina? Perché? Che differenza c'è, scusa? Ah, non lo sai? No. Allora, maschio, tu se vuoi cantare come nero, tu devi essere maschio, maschio. Tu non puoi essere maschio come me, dire, per esempio, come Bob come? Dylan. Dylan è un grandissimo autore, no, però per la musica black non va bene. Lui aveva tutto piccolo, capito? Non induceva lui a stare insieme, alla carezza, ai baci con la lingua, no. Quella era no. John Baez, per esempio, lei John aveva tutto piccolo, lei non induceva, all'abbraccio forte con lo sudore, col bacio con la lingua, quello non induceva. No. Sì, perché la teoria di Larry White, io la conosco, si rifà sempre al funk di James Brown. Qual è il significato vero del funk per voi fratelli? You gotta get up to get down, that's certo. Right. Tu devi stare su per tornare giù. Before. Tu devi partire dall'alto, figlio mio. Sì. Se tu vuoi fare qualche cosa di grande nella vita, come prima cosa tu devi avere il funk, tu devi avere il sudore. Tu, le mani si devono non muovere, i piedi si devono non muovere, sotto in mezzo alle gambe si devono muovere. Maschio e femmina, tutto quanto. Greta, tutti i denti devono ballare. Tu devi baciare anche quando non baci con la lingua. Mm-hmm. Ha capito? Sì. Tu devi pensare sempre alla lingua che si muove. Io cerco proprio di non pensare quando lui parla, perché you gotta listen to me. In the words of the great, we remember this word, we gotta remember this. Dillo piano, però. Yes, che cosa dobbiamo ricordare? Blow Maceo. Parlando di Maceo Parker, attenzione, nel senso soffia Maceo Parker da sassofonista. Greta, non so tu che cos'hai, hai capito? Blow Maceo, certamente. Lord have mercy on my soul. È bello che poi ci mette sempre The Lord in mezzo col funk, come James Brown, che era un personaggio meraviglioso, aveva sparato alla moglie, però parlava sempre di Gesù e del Signore. Comunque, andiamo a un altro personaggio interessante della nuova generazione, si chiama Jesse Boykins III, il brano è Itis, non so il significato di Itis, cosa significa Itis, Larry? It means something nice. Qualcosa di bello, vabbè, facciamo andare. Jesse Boykins al sound check di Radio 24. Yeah. Stuck. For real. Soundcheck, il suono della musica. I ever seen in my life the sexiest piece of ass I ever seen in my life. Damn, I said, look at that. Say what? I ever seen in my life the sexiest piece of ass I ever seen in my life. So. I ever seen in my life. Life. I ever seen in my life the sexiest piece of ass I ever seen in my life. Damn, I said, look at that. I ever seen in my life the sexiest piece of ass I ever seen in my life. And we couldn't be happier. Yeah, that's what she said. Seen in My Life, la storia vera di Larry White, tratta da un album, un progetto intitolato Groovinators. Abbiamo partecipato insieme alla realizzazione di questo album e qui Larry White, in questa chiave super funk naturalmente, racconta la sua storia d'amore con Rona. Dopo aver ricevuto la cartolina di chiamata alle armi per il Vietnam, lui decide invece di partire in tournée in Italia, quindi un vero disertore, è per questo che è ancora in Italia, perché negli Stati Uniti non può tornare, mia cara Greta, e di notte in un parco a Roma incontra Rona, che è ancora sua moglie. E Rona, come la consideri tu, come la definisci? The sexiest piece of ass I ever seen in my life. Ecco, il più bel sederino che ha visto nella sua vita. Poi arrivando a Roma quel tempo lì era molto bello, molto molto puro, molto originale, molto molto bello. Penso c'è la strada che va in giro a Roma, si chiama GRA, no? Mm-hmm. E sì, noi, che c'entra? No, era molto bello perché là prendevamo, si cresceva spontaneamente una roba meravigliosa che si seccava sul raccordo anulare. Si chiamava GRA. Do you smoke some GRA? GRA, make me feel okay when I spoke the GRA. Prendevo queste piante e lì adesso a proposito di questo, ho visto che in Francia stanno venendo fuori le sigarette elettroniche per fumare marijuana. Ecco, così non dà fastidio, è legale. No, detto maggiorana. No, tu maggiorana, vabbè, quella la metti negli arrosti. Sono di uso comune. Sì, basta andare dal Green Doctor e farsi fare la prescrizione. Ma abbiamo poco tempo a disposizione, quindi io vorrei salutare Larry White e naturalmente abbracciare con tutto l'affetto e il funk possibile Greta Panettieri, che presenterà questo viaggio in jazz dove? Alla Feltrinelli di Via Appia a Roma il 22 di gennaio. E ti fai anche una bella suonata o no? Ci facciamo anche una bella suonata, ovviamente siete tutti invitati, Gegè, se ti va di Larry? Pensare, Larry per thank forza. Thank you very much. Larry, you have to come. Apporto la mia picciarella, va bene? Oh, please. Yeah, puoi anche fargli fare da MC della serata, può presentare lui il concerto. Sarebbe great fantastico, sarebbe yeah. Great. Allora, that's not, ladies and gentlemen, I love to present you, ladies and gentlemen, live here at Feltrinelli on the 22nd. I'd like to introduce to you a fine friend of mine. Va bene. Greta Panettiere. Greta Panettiere. Sta già preparando la presentazione. Sta già preparando. You're gonna love her, ladies and gentlemen. Posso chiudere il programma? Yeah. Grazie. Ok, ci risentiamo domani alle 15:30 per il soundcheck tipico della domenica, seconda parte alle 19:15. Quindi non mi resta che salutare tutti voi. Ancora auguri, buon anno, buona musica a tutti e vi lascio con un brano realizzato in compagnia di Greta e di un bellissimo coro gospel di Washington DC per il progetto New Joy. Si intitola Available for Wedding, che è già partito, lo sento in sottofondo. Senti il funk come sta avanzando, mio caro Larry. It's coming on, it's provoking the funk, that's what it's doing, it's provoking the funk. Saluta, ci sentiamo domani, arrivederci a tutti da Gegè Telesforo e Greta Panettieri. Saluta Greta. A tutti, buon anno. Lui va avanti, chi lo ferma? Quando volete, chiudete i microfoni quando volete. Potete chiuderli piano piano, perché questo va avanti. Blow, blow, Maceo.